ho la testa che mi scoppia, la roba che ho dentro non la trattengo. Più caldo dell'inverno, sei dei fuochi che accendo e non riesco a farmi strada solo mentendo. Sono vero grezzo hip hop in ogni verso che stende, attento. Resto in gioco ed un paio di cornature, si sta a spalle contro il muro in un mondo di fregature. L'alcol e le droghe deformano le figure, io spanculo a testa alta ogni vostro luogo comune. Ho il cazzo fino a domani per la merda che scrivo, il mio rullante che batte vi ricorda per cosa vivo. E se vi lascio blatterare per un solo motivo, vivo blando col mio suono e se volete vi affruttire. Allucinato da sta roba sotto effetto di amanite, la notte io e i miei fra fumiamo porre infinite. Nel cazzo di sistema siamo cellule impazzite, questo flow da soldato voi ancora non lo scalpite. Ehi raga mi sentite? O posso lì di criptonite? Queste strofe che troppo non le capite, e se non mi esprimo con parola voi gradite, perché ciò che passa in testa è fottuta dinamite. 21 sopra le spalle, ancora non ho mollato, mi emarcino dai cliché di un posto già condannato. Bombardato nella testa come da tacchinato, ho la mia voce d'un beat su cui mi sono sfogato. Ma abbandonato su sta strada io ancora cerco l'uscita, lei una sera me l'ha data e poco dopo è sparita. Questa canna che ho in tasca è la mia amica preferita, la mia vita, quel che voglio è fumarla fino alle dita. Ogni giorno vivo meno per paura di morire, un fratello me l'ha detto, ora non si fa più sentire. Questa roba è così forte che mi sento svenire, fai un giro nella mia testa e vediamo cosa hai da dire, yeah.